sabato mattina alcuni sindacati di inquilini hanno mandato una mail a tutti i capigruppo del consiglio comunale per chiedere di discutere con urgenza di approvare un ordine del giorno, un testo che poi effettivamente i sindacati proponevano riguardo proprio il ripristino di questi due fondi. Questa iniziativa si sta portando avanti un po' in tutta Italia, perché sono molti i comuni in Italia che stanno discutendo atti del genere proprio su proposta dei sindacati degli inquilini, quindi il tema è di forte attualità, quindi c'è una mobilitazione dei comuni in questo senso, spinta proprio da CGIL, CISL, UIL, SUNIA, SICET, UNIAT. A Bologna anche l'ASPI, che è l'associazione dei piccoli proprietari, ha firmato questa lettera. In altre città ho visto che anche Asia e altri sindacati, poi chiaramente sulla base del contesto territoriale magari qualche sigla cambia, però diciamo che è un'iniziativa di carattere nazionale. Quel taglio a questi fondi arriva in un momento in cui le persone stanno affrontando un caro vita, quindi c'è il rischio che la morosità incolpevole aumenti. Con la finanziaria vengono cancellati questi fondi, sono fondi che per i comuni sono molto importanti e per tutti i comuni, anche quelli governati dalla destra, peraltro ci tengo a sottolinearlo, perché poi questo è il piano di realtà. Tutti i comuni attingono a questi fondi per far fronte alla morosità incolpevole e quindi evitare banalmente gli sfratti, perché sappiamo che il 90% degli sfratti, parlo di dati nazionali, avvengono proprio per morosità incolpevole, quindi persone che non per colpa loro non riescono più a pagare l'affitto, e quindi sono fondi che poi in qualche modo riducono anche il contenzioso tra proprietari e inquilini, e sono fondi che poi vengono usati anche per il contributo affitto, il famoso contributo affitto. Allora è chiaro che non sono questi strumenti esaustivi in qualche modo di una politica per l'abitare. Io penso che nessuno può sostenere questo, perché quando parliamo di contributi e fondi che sono comunque di carattere temporaneo, che mettono una pezza su una situazione, chiaro che non sono soluzioni strutturali, però sta di fatto che permettono comunque un tempo di riassestamento delle persone, di trovare altre soluzioni, presa in carico dei servizi sociali, insomma guadagnare tempo da questo punto di vista è una cosa molto importante per migliaia di persone nel nostro paese e anche nella nostra città. È una città che comunque ha un protocollo sfratti, altre città non ce li hanno, che peraltro anche con il lavoro fatto con il prefetto, e questo viene contestato dalle destre, ha ridotto anche l'intervento della forza pubblica da questo punto di vista, quindi abbiamo visto anche questo dibattito nei mesi scorsi. Comunque l'ordine del giorno su questo interviene, cioè sul fatto che appunto i sindaci, e quindi anche il sindaco di Bologna, possa intervenire attraverso l'ANCI, il governo, la regione, quindi tutti gli enti preposti, affinché questi fondi vengano ripristinati. Faccio una parentesi, è una situazione, anche se su un tema diverso, simile a quella per il fondo per la ciclabilità urbana, 90 milioni tagliati dal governo, i comuni approvano atti di indirizzo, giro per l'Italia per richiedere che venga ripristinato il fondo, e parzialmente si è messo una pezza, perché poi il governo ha restituito il fondo anche se con dei fondi minori, che sono 30 milioni. La mobilitazione dei comuni è importante, peraltro quando togli fondi per la morosità incolpevole, i fondi per i contributi affitti, in un contesto dove stai smantellando anche il reddito di cittadinanza, che è uno strumento attraverso il quale molte persone pagano l'affitto, noi pensiamo che questo sia un attacco frontale alla povertà, alle fasce più deboli. Ecco, a proposito di pezze che, come dire, si cercano di mettere a livello locale causate da tagli nazionali, a Bologna si è registrato anche un aumento delle domande per il sostegno all'affitto. Il comune da solo non ha le risorse per sopperire a questi fondi tagliati? No, non ce li ha evidentemente. Il rischio è che l'anno prossimo il contributo affitto sia pari a zero, che di questo stiamo parlando, ed è giusto che le persone lo sappiano, perché quando viene cancellato e viene portato a zero un fondo nazionale, su questo peraltro c'è anche una discussione secondo me che stanno portando avanti altri sindaci, tra cui anche quello di Bologna, però è una discussione che sta a livello appunto di sindaci. Ma che è il ruolo dei comuni? Cioè, in un contesto dove c'è una discussione sull'autonomia differenziata, quindi la taglio con l'accetta, sul ruolo delle regioni come piccole patrie, piccoli stati, con il rischio di creare diseguaglianze, invece bisognerebbe affermare una discussione sul ruolo dei comuni come luogo di riduzione delle diseguaglianze. Io lo dico molto francamente, non capisco perché i fondi per le politiche all'abitare debbano passare per le regioni e non direttamente per i comuni, perché i comuni hanno situazioni abitative molto diverse. Bologna è una città a forte tensione abitativa, una città che ha perso 5.000 canoni concordati negli ultimi 6 anni e ha visto passare le offerte sulle piattaforme Airbnb e quindi locazioni brevi turistiche da meno di 1.000 a 4.000 nello stesso periodo, quindi ha una fotografia lampante. Il governo taglia i fondi, toglie la di cittadinanza, non intende in alcun modo in questo momento dare gli strumenti alle città ad alta tensione abitativa per regolamentare le locazioni brevi turistiche, come chiede persino l'Europa, come già avviene in tanti altri paesi europei. Da questo punto di vista la situazione è complicata, però comunque l'amministrazione farà la propria parte, ha già annunciato un piano casa che sarà presentato a fine marzo, secondo le tempistiche che sono state comunicate.